si sta a Tione? A Tione si sta molto bene, per il clima e per tutto, secondo me. Gli adulti come vedono i giovani? Un po' vivaci. Però dai, sono dei bravi ragazzi per lo più. Come i giovani vedono gli adulti? Secondo lei? Secondo lei? Troppo bacchettoni. Secondo me noi abbiamo ancora le regole che utilizzavamo anni fa, che i nostri genitori usavano con voi, e voi avete delle regole un po' più diverse.